da Treviso, 2007, e lo sai anche tu, Erma. Pare che ovunque sia la stessa storia. Chi potrebbe parlare non lo fa, mentre chi parla spesso dovrebbe tacere. Lo sai perché? Perché qui chi parla non sa ciò che dice. Io rimango senza voce in questo mondo che approfonda sulle spalle una croce. E muore dentro chi ha il cervello spento. Se chi ha la voce per parlare butta le parole al vento. E rimango senza voce in questo mondo che approfonda sulle spalle una croce. E resterò da parte con chi tace. Se ogni parola è luce ma rimane in superficie. Ehi, io vorrei andare più in profondità, trovare un modo per sciogliere il nodo di una società che ci divide, che erge muri alti e spessi. E se ci pensi ci porta a sentirci diversi tra diverbi e controsensi incongruenti. Questo mondo è una casa e noi siamo tutti conviventi. Dovremmo provare a parlare di più, o perlomeno evitare di giudicare con commenti inconcludenti solo per fare i saccenti. Se la vita insegna siamo tutti studenti, non ci sono migliori o peggiori. Tuttavia so che l'unione tra persone è un'utopia. Se ognuno pensa per sé si sente una persona sola. Parole un urlo che gli si strozza in gola. Stiamo zitti, convinti sia giusto così, coscienti che ogni giorno qui chi parla non sa ciò che dice. Io rimango senza voce in questo mondo che approfonda sulle spalle una croce. E muore dentro chi ha il cervello spento. Se chi ha la voce per parlare butta le parole al vento. E rimango senza voce in questo mondo che approfonda sulle spalle una croce. E resterò da parte con chi tace. Se ogni parola è luce ma rimane in superficie. Io ho gridato ma non è servito. Tutto il mio fiato l'ho sprecato, è sfinito. E ho visto ogni senso svilito. Ha servito al vuoto e poi il linguaggio stuprato è rivenduto a poco. Ora tutto intorno al brusio di fondo di un mondo da cui mi nascondo. È un mondo sordo, un mondo che non ha più orecchie per intendere. Sa solo svendere, sa solo prendere, pretendere e mai comprendere. E ormai con queste nude lettere cosa vuoi farci? Ma con chi mai potremmo confrontarci? Guardaci, stiamo a barca a menarci tra questi marci. Prima che parlino prendili a calci. Sui loro stracci baci, abbracci, voglio sputarci. Se tu vuoi starci, stacci. Io cambio aria, qui non c'è storia. Questa gente non ha futuro e non ha memoria. Perché qui chi parla non sa ciò che dice. Io rimango senza voce in questo mondo che profonda sulle spalle una croce. E muore dentro chi ha il cervello spento. Se chi ha la voce per parlare butta le parole al vento. E rimango senza voce in questo mondo che profonda sulle spalle una croce. E resterò da parte con chi tace. Se ogni parola è luce ma rimane in superficie. Parole al vento nel clamore, nel grigiore. Ombre mute, facce sconosciute in certi sabati sterili che non ti danno ciò che meriti. Nemmeno un briciolo di prospettive con cui difenderti. Forte di te non devi arrenderti. Mediocrità e freghismo vuoti. Rapporti umani tra falsità e qualunquismo. Scavo polvere con le mie mani. Le mie speranze fatte a brani. Quale domani? Siamo lontani. Dimmi di cosa blatteri. Coi tuoi pensieri espressi in 160 caratteri. Discorsi SMS. Frasi compresse, complesse. Come se non ci si conoscesse. Ed è difficile capirsi. Ci si fraintende continuamente. Tra chi pretende di saperne ma non essere niente. E si sente l'eco del silenzio. Da qui sentenzio. Che qui chi parla non sa ciò che dice. Rimango senza voce in questo mondo che profonda sulle spalle una croce. E muore dentro chi ha il cervello spento. Se chi ha la voce per parlare butta le parole al vento. E rimango senza voce in questo mondo che profonda sulle spalle una croce. E resterò da parte con chi tace. Se ogni parola è luce ma rimane in superficie.